Roberto Di Varese, cambia, metti sulla Zanzara, vai là, veloce anche, vai sulla Zanzara, tu devi ascoltare quei programmi lì, non ascoltarmi, te lo ordino, è un mio diritto, ho il diritto di non essere ascoltato da gente come te, ho il pieno diritto, vai sulla Zanzara, vai! La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Stelle, sentite cosa ha detto qualche giorno fa qui alla Zanzara il senatore Giarrusso. Voglio iniziare così, caro Parenzo, con le parole di Giarrusso su Berlusconi. Su Berlusconi che aveva una palazzina intera di mignotte, ma soprattutto con quello che ha detto Giarrusso su Renzi. Renzi peggio di Berlusconi. Senti. Renzi è peggio di quello che appare, non è un fenomeno nato ieri. Cioè, peggio di Berlusconi, secondo lei? Ma molto peggio. Ma come peggio di Berlusconi? Renzi ha una via da lontano, è stato preparato negli Stati Uniti d'America dove ha avuto... Sì, è andato negli Stati Uniti a formarsi e soprattutto ha una regia di suo padre, gran maestro della massoneria, dietro, che fa venire i brividi. Il padre gran maestro della massoneria, il padre di Renzi. Tra l'altro il padre di Renzi oggi è al centro delle attenzioni dell'opinione pubblica e della stampa, perché una sua azienda è fallita, lui è accusato di bancarotta fraudolenta. Quello che penso di questa vicenda è molto semplice, ma chi se ne frega? Cioè, chi se ne frega dei problemi della società, del padre di Renzi? Non sono assolutamente renziano, ma chi se ne fotte se una società del padre di Renzi, dove lavorava anche, vero, Renzi qualche anno fa, la distribuzione dei giornali, se non sbaglio, è fallita? Ma chi se ne fotte del padre di Renzi? Ora, il tuo amico sembra, secondo Dagospia, sempre ben informato ovviamente, D'Agostino, che il tuo amico Curzio Maltese, neo parlamentare europeo di Tsipras, voglia tenersi pure lo stipendio di Repubblica. Beh, vabbè. Lui non si è sospeso. Quello col ditino alzato, il moralista, ma l'amico cosa, tuo. Ma fai chiarezza nel tuo cervello. No. Ma sei veramente una vergogna, lo sai che sei no, una ma vergogna. Scusami, ma sei devi, una adesso, vergogna. È parlamentare ti... europeo, si metta in aspettativa da Repubblica. No, scusami, senza rompere i coglioni. Poi il commento chiaro? Lo facciamo dopo. Il fatto è che lui ha sempre detto che avrebbe continuato a scrivere per il suo giornale. Amico mio, ti devi dimettere, il suo giornale, ti devi mettere che è un'azienda in aspettativa privata. No, infatti pare che sono incazzati. Giornalista o fai l'europarlamentare? No, stai calmo, il non giornale c'è. La Repubblica, i soldini sono del signor dell'ingegner De Benedetti. Senti, è una vergogna. Quindi, che quello che ha sempre il ditino alzato fa il giornalista pagato da Repubblica c'entra? E nello stesso tempo il nostro rappresentante a Bruxelles. È una vergogna, soprattutto per il personaggio, è una vergogna. Ma non è vergogna per niente, lui ha scelto di continuare a lavorare. Ma io non ho capito, ma perché un avvocato può continuare a fare l'avvocato e invece... Dai, su, è una cosa assurda, no, dai, scusami, lo sai anche tu che è assurdo, lo sai anche tu. Comunque no, riprenderemo più avanti questa polemica. Del privato. Ma chi ha detto che sono soldi pubblici? Ho e detto allora, semplicemente... Se lui riesce a fare entrambe le cose... Va bene, bravo, complimenti. Fate un applauso, mettete l'applauso a Parenzo, dai, la coerenza di Parenzo, dai, ma forza. Bravo! Ma tu puoi fare polemica su qualunque cosa, anche sul moscerino Zezé. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? Animalisti, Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Allora, come la mettiamo con Tosi? Perché non c'è questa mobilitazione? Il sindaco di Verona, ha messo sul tavolo un'ordinanza che consente, ovviamente non a tutti, di sparare ai lupi della Lessinia qualora si avvicinassero troppo alle case. Abbattete la coppia ai sette cuccioli. Oh, a proposito, l'altro giorno di Floris e Giannini, Scalfari, senti, la differenza tra Renzi e Berlusconi è il bunga bunga. Scalfari, non si sentiva una mazza, Scalfari, sembrava uno scappato da casa, uscito col giubbino blu, eccetera, non si sentiva nulla, niente, una noia mortale, mortale, però vabbè, la differenza tra Renzi e Berlusconi è bunga bunga. In che cosa sono diversi Renzi e Berlusconi? Beh, in età. E poi sono diversi dal fatto che Renzi, fino a prova contraria, ma non credo, non fa bunga bunga. Ferrara, Giuliano Ferrara. Identico a Berlusconi, vedo che adesso lo dice anche Eugenio Scalfari, finalmente, non è che è simile a Nave, è identico a Berlusconi, con la differenza naturalmente che ha la metà dei suoi anni, che viene dalla politica invece che dall'industria, insomma le differenze ci sono, ma è lo stesso tipo di cosa, cioè è l'anomalia italiana o la specialità italiana. Yeah! Sull'articolo 18 diciamo solo una cosa, perché in due giorni non ne parliamo e non ne parleremo mai più. Secondo me è addirittura troppo poco. Cioè lui vuole fare l'articolo 18, cioè togliere molte tutele ai neoassunti. Dunque si creerebbe ancora più disparità tra quelli che saranno assunti adesso e quelli che sono già assunti. Una follia assoluta. Allora, se devi essere coerente fino in fondo, modifica anche i contratti esistenti, non so, di quelli già assunti, non di quelli che verranno assunti. Da Genova, il professor Paolo Becchi. Buonasera, professor Becchi, come sta? Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Ecco. Io sto abbastanza bene, insomma, è il paese che non sta troppo bene. Allora, so che io dovrei essere rimproverato da lei perché non ho letto il suo manoscritto. Lascia perdere, pazienza, lo farai in un altro momento. Lo farò nei prossimi... Adesso abbiamo 1000 giorni di tempo per eleggere anche i due membri della Consulta. Quello gli italiani non si scaldano sui membri della Consulta, gli italiani sono incazzati perché la Corte Costituzionale costa troppo, perché i giudici della Corte Costituzionale prendono stipendi dai 300 ai 500 mila euro. Addirittura in prorogazio, ti ricordi la famosa storia della prorogazio? Sì. Adesso sono tutti in prorogazio la Consulta, in prorogazio il Consiglio Superiore. Vabbè, ma adesso si metteranno d'accordo Renzi e Berlusconi pure su questo, dai, si metteranno d'accordo. Come lo definisce l'accordo di ferro, questo patto di ferro tra Renzi e Berlusconi, dai, professor Becchi? Diciamo che è un'assicurazione sulla vita per Renzi, ecco. Perché? Perché non crollerà mai, resterà lì, non lo faranno fuori, è un'assicurazione sulla vita per Renzi, il patto del... Ma anche lei li considera uguali, a parte le donne, sembra che a Renzi... No, una grossa differenza che è sfuggita a tutti quelli che mi hai nominato adesso, che è questo: uno è un leader... L'altro, oltre ad essere leader, era un capo carismatico, parlavo di Berlusconi, e credo che in parte lo sia rimasto ancora. L'altro invece è soltanto un leader, non c'è dietro al momento nessuno, non c'è dietro neanche il suo partito, insomma. Vabbè, si vede molto bene da... Cioè lei sta dicendo che per lei è più pericoloso Renzi di Berlusconi? No, sto dicendo semplicemente che ha delle qualità in meno, nel senso che Renzi è soltanto un leader, Berlusconi è stato... Ma lei chi sta più simpatico? Capo. Mi dica la verità, lei sta più simpatico Berlusconi? Cioè riesce a inquadrarlo meglio? No, le mie simpatie non c'entrano assolutamente niente, di solito mi sono simpatiche più le donne che gli uomini. Sì, di solito sì. A proposito, ma A Genova dove c'è lei? Ma c'è qualche bordello anche là? Perché ieri abbiamo iniziato a fare questa campagna a favore di... Io questo non lo so, non li frequento. Beh, guarda, se ci sono io non li frequento. Non mi dirà, professore, che alla sua veneranda età lei non ha mai frequentato un bordello in vita sua? Una volta ci sarà stato in vita sua, o no? No, io se devo essere sincero, no. Ma tu lo sai, Parenzo, che c'è in Parlamento a proposito di... Ma scusami, Cruciani, non è che tutti sono come te. Cioè, no, ma che c'entra? Ma io sono andato due volte. Cioè, voglio dire, se il professor Becchi avrà usato le sue armi di seduzione di massa, sì, no, e senza ricorrere però al stesso pagamento, ma per questo non è una cattiva persona come no, tu pensi. Assolutamente, no, assolutamente. Io anche non sono mai entrato in un bordello e non penso di non essere un amante del genere. No, tu dici femminile. Che chi ci va è un malvissuto, è diverso? È un malvissuto. Certo, un po' malvissuto è, perché uno che deve allora, pagare l'amore evidentemente non ha abbastanza fascino per poterlo conquistare. Allora, secondo me. Allora, tu sai che in Parlamento c'è un gruppo di persone, ovviamente di ex Scelta Civica, cattolici, eccetera, ne parleremo poi più avanti, i quali vogliono mettere in prigione i clienti delle lucciole, cioè hanno fatto un disegno di legge, cioè non solo li puniscono con le multe, eccetera, ma se sono beccati per la quarta volta con una puttana, cioè possono andare anche in prigione, perché dicono in questo modo si può eliminare il problema della prostituzione, capisci? Vogliono eliminare la prostituzione. Questa è una follia. Alla Biancofiore piace Renzi. Modus operandi, cioè il fatto che sia un decisionista, poi per il resto lo contesto in tutto, quindi voglio dire, adesso lo elogio, è Gagliardo, voglio dire, è uno che smuove le acque, la famosa rattamazione. No, siamo, io non tutti sono diversamente renziana. Beh, io sono calma, molto diversamente renziana, esatto. A me piace il suo modo, perché devo dire che, lo ribadisco, è secondo me quello della Berlusconi Generation, cioè un modo fresco, attivo, decisionista. Prodi e l'euro, Prodi e l'euro, caro Parenzo. L'altro giorno, Prodi, questa lunghissima intervista, ha detto a una domanda precisa su uscire dall'euro o no, sentiamo. È arrivata l'Europa della paura. Ecco, oggi c'è qualcuno che dice sarebbe meglio abbandonare l'euro. È un progetto fallito anche quello. Ma certo, col suicidio uno risolve tutti i problemi. Professor Becchi, quando sente la voce di Prodi, le prudono le mani, Ma no, veramente più che mi prudono le mani, mi viene il vomito cerebrale a me quando sento Prodi. Il suicidio è stato l'euro, non uscire dall'euro. Cioè è lui che ci ha portato al suicidio, dice lei. È lui che ci ha portato al suicidio con l'euro, esattamente questo. Mi sembra abbastanza evidente, ormai lo riconoscono tutti. Ma scusi un attimo, ma Renzi con questa roba dell'articolo 18 non è troppo timido? Lei addirittura è a favore del mantenimento di tutele, garanzie, eccetera, eccetera. Ma no, vuole mettere i padri contro i figli, cioè invece di pensare ad occupare, di trovare dei posti per i giovani, sta cercando di mettere in discussione i diritti dei lavoratori anziani e dei loro padri. Ma non è questa la soluzione del problema. Vabbè, comunque, al di là di questo, professor Becchi, un attimo, io penso però. che Grillo Becchi. Lei si definisce ancora Grillino? Io Grillino non è una cosa perché che non mi è mai piaciuto. No, io, però sti Grillo mi sembra sono in una... sempre stato vicino al Movimento però 5 Stelle. Però è una china discendente, non c'è più slancio, non c'è più niente. Però lei andrà... Beh, guarda, vedremo a ottobre ci sono 3 giorni. Vabbè, che dovrebbero quello... secondo me rilanciare notevolmente lei ci va? Il Movimento. Lei ci va? Guarda, non lo so. Non, ma Pizzarotti, non Pizzarotti dovrebbe andare, secondo lei? Perché non dovrebbe andare? Beh, sa che è con Grillo. Di una città. Sa che è con Grillo, non è che corre non pensando. Lo so. Ma io queste cose non le posso sapere. Senta, ma oggi in Scozia che cosa voterebbe lei? Oggi in Scozia sì. Per l'indipendenza. Per l'indipendenza, eh? Sì, sì. Stare con chi si vuole e stare con chi ci vuole. Cioè lei voterebbe per l'indipendenza della Scozia, perché lei spera in un effetto a valanga che crolli tutto dopo l'indipendenza della Scozia. Ma no, semplicemente perché ognuno sta con chi vuole, non devo essere obbligato a stare con nessuno. Se preferisco la mia autonomia, la mia autodeterminazione, bene. credo che il popolo scozzese abbia tutti i diritti di starsene tranquillo per conto proprio. Esiste il divorzio nelle famiglie, sì. Dovrebbe anche esistere il divorzio politico. Beh, io sono d'accordo con questo, devo dire la verità. Parenzo, che vuoi? Dimmi. Buonasera, sono Umberto Bossi e volevo dire agli ascoltatori di Radio Padania che sono venuto oggi qui sono venuto qui a Strasburgo per vedere. Ma non è Strasburgo, questo è Edimburgo. A Strasburgo. Edimburgo, non come Edimburgo, ho sbagliato anche l'aereo, perché ero andato a Strasburgo, avevo letto a Strasburgo e infatti non c'è nessuno a Strasburgo oggi. Ma infatti, scusi, che io, stai zitto, che volevo dire agli ascoltatori di Radio Padania, va bene, che sono qui a Strasburgo. Ma non è Radio Padania questa, è Radio 24. Solo sarà presto Radio Padania Libera. E adesso siamo a Strasburgo per celebrare l'indipendenza della Scozia. Strasburgo. E ma non c'entra Scozia niente. Resterà a Strasburgo. La Scozia sono europeisti. Chi è non questo, assolutamente chi è questo, niente. Chi è questo che parla? È il professor Becchi. No, non è Renzi. E allora mandalo a fare in culo, che non voglio sentire questa gente inutile al telefono nella mia radio. Ma radio non Padania. C'entra niente. È a favore vostro, Becchi. Dice a favore dell'indipendenza della Scozia. Ha detto. E allora è bravo, l'onorevole Becchi. Ma non nostri. È onorevole, è professore. È venuto sul Po alle feci ma del non Po è, con non me. È, ma è non, è mai, non è mai venuto. È venuto alle feci del Po con me. Come no, adesso io sono qui andato. A Strasburgo, ma volevo capire perché qua a Strasburgo non c'è nessuno che non Scozia lì, non ho capito. Ma perché non è Strasburgo, era sbagliato aereo, Bossi, Edimburgo. Edimburgo, Strasburgo, guarda, libera, Strasburgo, adesso facciamo la battaglia per Strasburgo, libera, poi facciamo la Petite France. Ma scusi, ma con chi è là lei a Strasburgo? Con Correnzo, sono venuto, il prossimo sindaco di Strasburgo, il governatore di Strasburgo. Ma non c'è nessuno là? C'è tutto vuoto il Parlamento, non c'è un cazzo, sono qui davanti con la spada, Alberto da Giussano, mi hanno detto, le ho detto libertà, e mi hanno portato via due uomini in camice bianco, non capisco perché. E sono venuto qua. Comunque voglio dire una cosa al Becchi. È evidente che dove c'è casino c'è 5 Stelle, dove c'è casino c'è Becchi. Allora, in un momento in cui invece i paesi vogliono entrare in Europa, vedi il caso dell'Ucraina. Ma non fare la tua analisi adesso, no, che non ce ne frega nulla. La tua analisi complessa. Se voglio entrare in Europa è un po' un problema, cioè ovviamente certamente il governo che ci ha imposto lì adesso con un colpo di Stato vogliono entrare in Europa, ma gli ucraini non di certo volevano a lei entrare piace, in Europa. A lei Putin piace tantissimo, Becchi. A lei piace penso che dovrebbero dargli l'Oscar come premio della pace, perché se non è scoppiata la terza guerra mondiale lo dobbiamo a lui, il prossimo premio per la pace dovrebbero darlo a Putin. Che poi è il Nobel, che poi è il Nobel, scusa, non l'Oscar, scusa. Però va bene lo stesso questo Becchi, non c'è tanto, problema. Anche il Golden Globe, anche possono dargli la palma di Cannes, chi se ne frega. No, il Nobel per la pace va benissimo, l'hanno dato Obama. Strasburgo libera, Strasburgo libera, Bruxelles libera. Ma ha sbagliato, era Edimburgo, l'aereo. Adesso facciamo la libertà anche per Strasburgo, vedi che sei un cretino che non lo sai. Rosy Bindi non era quella che diceva che criticava la Boschi e alcune ministre del Partito Democratico scelte in quanto belle e non competenti? Beh, le Iene l'hanno intervistata, pensate su che cosa? L'hanno intervistata sui politici fighi. Cioè lei si è messa a scherzare, a ridere con le Iene, per carità, va benissimo. Sui politici belli, quelli non belli, eccetera. Lo capisci, no? Certo. Sì, certo. Signore e signori, Mister Parlamento. E parliamo di questo Parlamento. Allora, primo, Roberto Fico. Com'è sto ragazzo? Per definizione, se si chiama figo. È bello. È figo. Un elettore dice, beh, insomma, è pure figo. Figo lo voto. Righetti, Partito Democratico. Matteo Righetti, cosa c'ha di bello sto ragazzo? Più il fisico, più lo sguardo, cosa? È un tutt'uno, su. Quanto ha influito in lui la bellezza per fare carriera? Avrà influito anche in lui. Salvini. Matteo Salvini. Questo a me non mi piace. Non ti piace proprio? No. Niente? Non mi piace. La barbetta? Non mi piace questo. Non mi piace. Battista, 5 stelle. Alessandro Di Battista. Beh, insomma, diciamo che Di Battista colpisce più l'irruenza che la bellezza. E il vincitore? Se proprio dovesse scegliere Mister Parlamento 2014, chi sceglieremo qua? È figo, ho detto. Se si chiama figo. Bello. È figo, è figo, è figo. Nei giorni scorsi, caro Parenzo, cosa è successo? È successo che abbiamo ricevuto il solito nastro, Nichi Vendola, sulla famosa frase di della Bindi contro la Boschi, contro il ministro Boschi, scelte anche altre in base alla bellezza, ha chiamato la Bindi con questo risultato. Buongiorno onorevole Bindi. Sì. È la segreteria del presidente Vendola, il presidente è in collegamento, posso passarglielo? Un attimo solo, Grazie. Sì, me lo può passare, me lo può passare. Ok, glielo passo, grazie mille, buona giornata. Grazie. Sì. Buongiorno. Ciao Rosy, come stai? Bene caro, bene. Tutto a posto? Tutto. Sì, tutto a posto. Senti, volevo dirti che su questa storia delle ministre hai assolutamente ragione. Ma poi l'ho detto, non so se hai visto il video, era talmente delicata la cosa. Cioè, boh, vabbè, comunque. Comunque tanto non oggi ho risposto a Boschi che ha detto che lei, che gli fa tristezza questa cosa, che a me mi fa tristezza che si pratichi, che le giovani generazioni pratichino il vizio più vecchio della politica, che è l'ipocrisia. E poi perché la Boschi si offende? Appunto, cioè, non capisco. No, ma comunque dai, tanto ti ringrazio molto che me lo dici. Comunque questo Renzi tratta meglio Berlusconi di esponenti del suo partito, Ma senti, passi per Roma? Sì, in questo momento magari no, ma diciamo una cosa, guarda, quando passi per Roma mi scelti, così facciamo quattro chiacchiere. Sì, molto volentieri. Un abbraccio. Ciao. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Consulta CSM, tredicesima fumata nera, si vota di nuovo martedì, il presidente della Corte Tesauro, spettacolo che i cittadini italiani non meritano. Trattative in corso, confermato il ticket donato Bruno e Luciano Violante, Berlusconi lavora ad un'intesa con la Lega, Grillo partita truccata. Primo sì in commissione alla delega sul lavoro, democratici divisi sull'articolo 18, Bersani intenzioni surreali, bene così dice invece il Fondo Monetario. Referendum sull'indipendenza in Scozia, prevista un'affluenza record, seggi chiusi alle 23 ore italiana, nei sondaggi no leggermente in testa. Nuovo video dell'ISIS con un ostaggio, il giornalista britannico John Cantlay, rapito quasi 2 anni fa, ascoltatemi dice sull'ISIS solo disinformazione. Su richiesta al presidente anticorruzione Cantone si è dimesso da commissario delegato di Expo Antonio Acerbo, indagato per il progetto Vie d'Acqua. Indagato a Genova, Tiziano Renzi, il padre del premier, bancarotta fraudolenta per un caso di fallimento. Sono sereno, dice lui, ringrazio la magistratura. No, voglio leggerti un comunicato, caro Parenzo, uscito oggi da parte dei neoborbonici. Dei neoborbonici, ti prego, è una cosa pazzesca. Tu lo sai che esiste uno che si è autoproclamato presidente del... perché non esistono solo i matti del Veneto, matti o comunque quelli che pensano che esista ancora una Repubblica del Veneto, quello eccetera. Quello di ieri era simpatico, il governatore, chi è quello, il presidente del governo veneto? Vabbè, sì, una cosa del genere. Il califfo Albertotto, simpatico, per carità. C'è il anche... califfo buono, cioè... C'è anche il presidente del Parlamento delle Due Sicilie. Beh, il presidente del Parlamento. Personaggi straordinari. Come si chiama questo? Comici, dei comici meravigliosi. Non mi ricordo come si chiama, non è importante. Adesso andremo a prenderlo, non so come si chiama. Credo che si chiami. Albonico. No, una cosa del genere. Ma questi qua, senti, Napoli, leggo oggi su un'agenzia di stampa. Napoli, 17enne ucciso. Neoborbonici, boicottiamo sponsor della Zanzara. Sai le pernacchie? Sai le pernacchie. Sì, ha ragione. Stai zitto, coglione. No, perfettamente stai zitto, imbecille. Quando si tratta di queste cose, ma boicottato tutto, che cosa? Che ha cosa? Ragione, ma stai tutto. Zitto, cretino. Ma è indecente, cretino. Cretino. Ha perfettamente ragione. Sì. No, ma senti che cosa dicono questi qua, Senti che cosa dicono, senti, sulla storia di Napoli, sul regno delle Due Sicilie. Senti. E nel momento in cui c'è stata l'unità ci hanno tolto tutto, hanno tolto i soldi dal Banco di Napoli, dal Banco di Sicilia, cioè rapinato. Raccontare che cosa la ricchezza del regno potrebbe anche essere scontato, perché ormai è un dato acquisito, però c'è un dato che dovrebbe farci pensare: se al nord ci sono 30 aeroporti, al sud ce ne sono 10, fa qualcosa che non va. Se al nord ci sono 3 aeroporti intercontinentali, al sud non ce n'è nessuno, fa qualcosa che non va. Problema serio questo qua, effettivamente è un problema serio. Addirittura segnalano i fatti, non si sa che cosa, quale frase che avrei pronunciato all'ordine dei giornalisti del Lazio richiedendo opportuni provvedimenti, ma sai le pernacchie. Ma perché cosa hai detto? Ma non lo so, ho fatto una domanda a buon anno, non lo so, domande provocatorie. Ho detto che la responsabilità di quello che è accaduto a Napoli è anche di Napoli e dell'illegalità di Napoli, e tutti mi danno ragione. Ma volevo segnalare che ieri a un certo punto hanno sospeso i lavori per un mausoleo. Volevano fare un mausoleo abusivo per Bifolco, capito? Per il povero Davide Bifolco. Un mausoleo abusivo a Napoli. Mausoleo, capito? Di cemento, ma stavano costruendo un mausoleo a Rione Traiano. Un mausoleo. Dai, su. Andrea Varese. Pronto? Sì, chi è? Allora, mi senti, Cruciani? Sì, ti sento, dimmi. Siamo qui con Michele, sceso dall'albero per parlare con te. È sceso dall'albero perché si era rotto i coglioni di stare sull'albero. Cioè... Senta, no, coglione a lui che a me mi hai fatto 10 minuti ieri. Vabbè, okay. Chi è? Chi? Michele, come si... Sì, vabbè, d'accordo. Dai, Andrea. Pronto? Buonasera. Michele, ciao, come fai di cognome che non mi ricordo più? Forzinetti. Forzinetti? Yes, Forzinetti. Forzinetti, ma scusa, che sei stato a fare 3 giorni? Quanto sei stato appeso a quell'albero? Stato 7 giorni. Ma che c'è, un cane là? Sì, c'è un cane, c'è una capra, c'è una fattoria, proprio un disastro. Molto qua. Bene. Ma scusami, adesso 7 giorni su un albero perché tu non vuoi che quegli alberi vengano tagliati, giusto? Certo, e poi devo fare la conta degli scoiattoli che sono su cipressi, insomma, devo fare un paio di conti, un paio di studi antropologici, cioè avevo un paio di cose da fare, perché ho detto, boh, ma come hai fatto a stare 7 giorni su quel cipresso? Come ho fatto? Mi sono seduto sul ramo e ho aspettato. Ma ti davano da mangiare tutto? Come hai dormito? Sì, hai presente? Sì, che c'era presente, c'è uno zoo quando c'è la scimmia sopra e gli lancia le noccioline. È uguale. Perfetto. Io ero sopra, esatto, la gente mi lanciava le noccioline. Sì, ma io voglio capire. Mi lanciava i termos. Ho capito. Io e Parenzo vogliamo capire una cosa: in tutto questo hai ottenuto un risultato dopo 7 giorni sull'albero e la gente che ti lanciava? Cioè, questi alberi saranno abbattuti, sì o no? Questi alberi abbiamo ottenuto la sospensione. Abbiamo ottenuto che dopo 2 anni finalmente hanno iniziato a far manutenzione. Abbiamo ottenuto che a Varese adesso si sta riunendo qua sotto il cipresso una bella rappresentanza. Stiamo raccogliendo un casino di firme. Ma perché questi li volevano abbattere semplicemente perché ormai... Perché li stanno sul cazzo, insomma. Cioè, si fa eugenetica anche sulle piante adesso. Ma adesso non esagerare, eugenetica. Però questo ragazzo mi pare veramente una persona che merita rispetto, mi pare per bene. Cioè, voglio dire, chi ha fatto? Si è arrampicato sull'albero. Anche sulle piante. Tra poi chi inizieranno a fare razzismo si sa. Cioè, il granito è svizzero, allora la condrocite viene dalla Sicilia. Cioè, qua aspetta non c'è un attimo, paese. Che ho la borsa. Scusami se abbiamo la borsa, sai, le azioni, eccetera, queste cose qua. Che dobbiamo fare così? Fa male solo a chi non sa ridere. Neri alla Zanzara, super animalista. Chi mangia la carne è un assassino. Allora, la persona normale è la persona che si nutre di vegetali, la persona anormale è quella che fa la carne. Poi chiaramente c'è un grande interesse a far nutrire le persone di carne e a far bere latte e latticini, perché così si ammalano. Io, prima di me vegetariani c'era Gesù Cristo. Leonardo da Vinci disse: verrà il giorno in cui tratteremo gli animali come nostri simili. Vorrei ricordarti, visto che guardiamo al passato, che c'era un periodo in cui in America, ma anche in Italia, i negri con la G erano considerati animali. Oggi un nero è presidente degli Stati Uniti d'America. Da Zanzara. Giovanni da Campobasso, dai. Sì, buono. Dimmi. Ah, finalmente. Dai, dimmi. Allora, tu c'hai la patente, Peppe? Sì, c'ho la patente, sì, certo. Allora che fai? Se vedi dei pedoni che non viaggiano sulle strisce pedonali, che fai? Li fai passare o li investi? Ma che vuol dire? Certo che non li investo. Tiri fuori la pistola e li spari. Ma io mica faccio il poliziotto. Ha commesso un omicidio. Sì, vedremo se ha commesso un omicidio. Ha commesso un omicidio. Allora Gabobo che va in giro con... Ma che c'entra Gabobo? Come che c'è? Ma che cazzo dici? Ma quanto hai bevuto stasera? Ma quanto hai bevuto stasera, Giovanni? Quanto hai bevuto? Ma che cazzo abbiamo bevuto? Tutta Italia di le vene, fai prima. Ciao amore, ciao tesoro, ti amo. Ma che tesoro, ma vaffanculo. Ti amo, ti do un bacio in bocca, dai. Ti do un bacio in bocca, ti piacciono i baci in bocca? Tu sento, ma dallo un bacio a me. Dove? Dove? Alla parte anteriore. Dove? Al centro vita. No, ma ti do un bacio forte in bocca, capito? In bocca. No. Che non ti piacciono gli omosessuali? Non ti piacciono gli omosessuali? A me mi piace solo le labbra verticali. A proposito di chi si ferma agli stop oppure no, da Twitter: tornando a casa sono stato fermato dai carabinieri e non mi hanno sparato, sarà perché non sono scappato. Mi sono fermato all'ALT, ho salutato, consegnato i documenti richiesti, ho aspettato che facessero i loro controlli. Quando hanno finito mi hanno salutato con buona giornata e scusi del disturbo. E adesso basta con questi neoborbonici, che dicono che sono razzista, a me non me ne frega niente. Napoli, Bergamo, non me ne importa nulla. Basta con questi appelli a boicottare, non c'è nessun boicottaggio, se ne fottono di quello che dite, capito? Neoborbonici, se ne fottono. Allora, Andrea da Varese è sempre con Michele. Michele, sei tu oppure c'è Andrea, quello dell'albero? Michele? Ti chiamo dopo. Pronto? Eccoci, Michele. Dimmi. Sei sempre tu? Sì, senti, io. Ma mi dicono però che volevano tagliare gli alberi per i tassi. E insomma, ogni tanto bisogna tagliare gli alberi per far vivere gli altri. Sì, esattamente. E allora? Nel senso, il tuo vicino di casa ti rompe le palle, chiami e allora gli spari. Cioè, questo è il discorso. Ma dai, ogni tanto bisogna tagliare alcuni alberi per far vivere altri alberi. Cioè, è questo il punto. No, guarda, adesso ti faccio un altro esempio. Se tu hai mal di testa, cosa fai? Prendi l'aspirina o ti tagli la testa? Vabbè, dai, ma non c'entra niente, dai. No, è vero, se tu tagli i rami bassi di questo cipresso e anche del tasso, questi convivono tranquillamente. Cioè, se il creatore Gesù Hare Krishna, chi per lui Buddha, ha messo il tasso in Europa e il cipresso in America, c'è un motivo. È già messo pure un oceano in mezzo. Perfetto, noi abbiamo preso questi oceani, abbiamo ridotto, li abbiamo messi a convivere a un metro dall'altro. Questi due poverini si stanno adattando, però fanno le liti come qualsiasi vicino ma di casa. Ma perché vuoi decidere tu al posto dei tecnici dei comuni, eccetera, eccetera? Me lo spieghi perché vuoi decidere tu al posto dei tecnici? Che sono cattivi questi qua, che sono? Vogliono distruggere gli alberi apposta? Sono molto sporchi e cattivi, però io ho massimo rispetto per loro. Però veramente sono stati appellati tantissimi tecnici. A me su Facebook in questo periodo mi hanno contattato proprio dei tecnici, degli agronomi, dei botanici da tutta Italia per dirmi: no, guarda che questa è una stronzata. Questo è. Comunque, guarda, Michele. Scusa, si sveglia da 30 ore, la testa sta andando anche a quel paese. In pappa sta andando, diciamo. Sì, no. In vata, però diciamo la verità, alla fine passata la booleana li taglieranno alla grandissima sti alberi, dai, su, taglieranno alla grandissima e faranno incazzare la cittadinanza. Vabbè, che è tutta qua. Ciao tesoro, ciao. Grazie. Diciamo prima che ci sono dei deputati che vogliono la prigione per i clienti delle lucciole, cioè propongono un disegno di legge in cui c'è anche la possibilità, non è la sola possibilità, perché prima vengono le multe, Deo gracias, c'è anche la possibilità che i clienti delle prostitute vadano a finire in carcere, capito Parenzo? Beh, laddove magari si scopra che la prostituta è vittima del racket, ovviamente il ma carcere che c'entra? No. Non hai capito, è proprio andare a prostitute, è proprio andare. È proprio andare. Che siccome spesso dietro a queste c'è il racket, cioè vengono cose. Se questo può servire a disincentivare, a pulire anche il cliente, ben venga. Fino a quando non è regolamentata diversamente. Ma se non sai nemmeno di. Ma parli di cose che non conosci. Cioè, hanno presentato un disegno di legge dei deputati in cui è previsto il carcere. Cosa, ma non c'entra niente il racket. Il racket è già punito. Il racket è già punito. Lontane. Il racket è già punito. Proverò a dirtelo. Vabbè, così. Avanti, spiega cosa che non quando, sai. Avanti. Fino a quando non regolamenteranno sì. In modo diverso. Deve dire, siccome non sa che dire, deve dire una banalità. Benissimo, avanti. No. Avanti con le banalità. Io forza. Ti ho detto che sono contro, sì? Contro la prostituzione per strada, sì. Perché ritengo che tra queste per strada il 70%, forse di più. Wait, please, I'm making zanzara. Oh, what is this? Scusami, è uno che suona, 70, ma che vuole questo? Contro la prostituzione per strada, bella, grande cosa di Parenzo. E sono no. Contro la prostituzione per strada. Vabbè, ma tu poi, no? Vai, tu non lo sei ma contro? Ma cioè io sono a favore delle case chiuse, figurati. Cioè, sì, ma quella dei è un'altra cosa. Ma le ragazze per strada sfruttate. Vabbè, quelle che sono sfruttate sono contrarie, quelle che vogliono stare per strada a battere. Ecco, allora, siccome per strada fino ad oggi nessuno di questi illuminati presenti in Parlamento è riuscito a far approvare una legge, una, per regolamentare il fenomeno e mettere nelle case protette con controllo. I tesserini sanitari, no sfruttamento, sì. Beh, venga allora a questo punto che vengano puniti i clienti qualora sfruttino delle ragazze per strada. Ah, tu, cioè, cioè fammi capire, cioè, secondo te è giusto punire i clienti? È giusto punire i clienti? È giusto punire i clienti? Però non ho detto un concetto che è complicato. Cioè, è giusto no? Punire i clienti? Hai 48 anni, ma non hai l'Alzheimer. È giusto punire i clienti? No, spiegami. È giusto, hai 48 anni, è giusto che punire tu i clienti? Capire le lascia parole. Perdere le battute. È giusto punire i clienti o no? Secondo te? Non ho capito. Laddove c'è lo sfruttamento, ma che sì. Ne sa uno che va da una se è sfruttato o no? Beh, è facile, voglio dire, per strada. Per strada, ma non sai che dire. Il 70% aspetta, di quelle per 30 strada secondi, sono vabbè. Sfruttate. È con noi Mario Sberna. Buonasera, deputato della Repubblica, come stai? Buonasera, grazie dottor Cruciani, tutto bene, grazie mille. Allora, ma innanzitutto che gruppo parlamentare sei? Diamoci del tu, Mario, così. Sì. Sono in Democrazia Solidale, gruppo per l'Italia. Come Democrazia Solidale? Ma non si è mai presentato. Dicevo Democrazia Proletaria? Beh, Solidale che è più bello. Ma che cos'è? Tu sei stato eletto con Monti, no? In Parlamento. Sì, ma poi dopo con Monti è successo un casino. Era esplosa, la sai bene, quindi sì? Vabbè, Democrazia Solidale. Ma che cos'è? Sì, sì. Chi è il capo? Chi è? Lorenzo Dell'Ai. Ah, Dell'Ai, certo. E che è quello che ha presentato con voi questo disegno di legge, o sbaglio? Certo. Sì, scusami. Però adesso Sberna, tu sai, mi stai molto simpatico, però il punto fondamentale è: perché volete punire prima con le multe e poi col carcere i clienti delle prostitute? Perché? Per quale motivo? Per il motivo fin troppo evidente che il corpo delle donne non è merce, non è una cosa. ha a che fare con la persona, con la dignità della persona, deve essere sempre salvaguardata. Per cui coloro che pensano di poter acquistare, come comprano un cagnolino o comprano la cioccolata, anche il corpo di una donna, stanno semplicemente sbagliando. Gli diamo 3 multe consecutive, alla quarta gli diciamo o vai a fare un corso di recupero dalla durata di 3 mesi oppure vai in carcere. Cioè il corso di recupero prevedete anche? Il corso di recupero. È evidente che bisogna essere malati, no, per andare ad acquistare una donna. Ma perché? Ma chi l'ha detto? Ma non è vero, non è vero, Mario, non è così, te lo posso assicurare. Stiamo parlando di esseri umani femminili, tanto è vero che nella nostra legge aboliamo addirittura l'articolo 5 della legge Merlin che puniva le prostitute, perché quello che a noi interessa non è punire la prostituzione, è punire la domanda. No, ma questo l'ho capito. La domanda non ci sarebbe neanche l'offerta. Ma questo qua è una cosa molto semplice da dire: se non ci fosse la domanda, non ci sarebbe nemmeno l'offerta. Però voglio, ma è ineliminabile: capito, la gente che va a prostitute c'è stata, c'è e ci sarà sempre. Ci sarà. Però noi abbiamo visto che in Svezia, in Islanda e in Norvegia, da quando hanno messo in atto questa legge che abbiamo copiato lì, non è che io sia stato l'ispiratore, no, dal signore. L'abbiamo copiata di sana pianta lì. Allora, negli ultimi 10 anni semplicemente è crollata. Crollata la disponibilità di prostitute, da 3.000 che erano sono diventate 300, e la maggior parte tra l'altro via internet o... Ma scusa, chi ha a casa e ha voglia di fare sesso e non può fare sesso e vuole andare a prostituta, che fa secondo te? Che cosa dovrebbe fare in mancanza? Chi non può fare sesso? No, chi vuole fare sesso e vuole andare a prostituta, per te che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe stare a casa e fare cosa? Si accende la televisione, ci guardi un film, cosa vuoi che ti dica? Un film cosa? Un film porno? No, ma si guardi quello che ne ha voglia, ma non può andare a prendere una donna come fosse un cagnolino, una pecora. È un essere umano che ha la sua dignità e che non può essere sfruttato in alcun modo. Oltretutto, quello che diceva prima il dottor Parenzo è assolutamente vero, perché la stragrande maggioranza delle persone che si prostituiscono le vediamo, insomma, sono dell'est o africane, le vediamo tutte le sere sulle strade intorno alle stazioni come sono qui io adesso, e subiscono ovviamente violenza, botte, oltre a quelle dei cosiddetti clienti, che non sono dei clienti, sono delle persone malate, cioè i clienti delle prostitute sono persone malate. Sì, penso proprio siano delle persone malate, perché arrivare a sfruttare una donna semplicemente dall'ombelico in giù è qualcosa che con la dignità della persona umana davvero non ha nulla a che fare, insomma, ha a che fare col vissuto animale, insomma. Col vissuto, chi va a prostitute sono degli animali. Chi va a prostituire è un animale. Degli istinti sono puramente corporei, senza un minimo di pensiero, perché basterebbe un minimo di pensiero, di riflessione, di intelligenza per capire che ovviamente. Ma se uno si vuole andare a divertire. Ho capito, ma se uno è. Ascolta, si diverte con la sua mano sinistra se è mancino, cosa vuoi che ti dica? Ma invece quello si vuole divertire con una donna la quale magari vuole fare la prostituta per guadagnare dei soldi. Ma questo non succede. No, non succede. Succede il numero relativo, e oltretutto questo numero relativo, Cruciani, è inaccettabile. Cioè noi siamo i legislatori, saremo quegli illuminati, ironicamente diceva prima il dottor Parenzo, però dobbiamo pensare al bene comune. Il bene comune è principalmente la persona e tutte le persone. Perciò chi sbaglia, anche uno che vuol farsi un buco, ha i soldi, vuole i soldi e lo fai anche chi glielo vende, tra l'altro, no? Cioè, non che la droga. Guarda, scusami, nostro amico, la pensi come lui alla fine. Aspetta un attimo, la cosa clamorosa è che la pensi come lui. No, e questa è la cosa incredibile. Diciamolo, la pensi come lui. No, te lo sto dicendo, a differenza del nostro amico deputato, io penso che se ad esempio ci fossero le case chiuse regolamentate in cui si sa esattamente chi come le gestiscono, chi sono, con controlli di polizia, medici, eccetera. Lì, se c'è la volontarietà, io, a differenza dell'amico, penso che sia giusto che venga regolamentato e quindi ci sia la prostituzione, ma regolamentata, perché Parenzo, questo è come andare al supermercato, in assenza di questo, le gabbie degli uccellini, dei però aspetta, in assenza di questo, siccome, ripeto, penso che il 70% delle ragazze che sono in strada prevalentemente immigrate siano sfruttate, vabbè, allora... penso che l'unico modo che lo Stato ha per intervenire sia quello non di tagliare, come dire, l'organo genitale maschile a chi ci va, ma punire tenerlo con delle belle multe, il carcere pulire, no, perché sono libertario. Ma vi rendete conto del moralismo? Del moralismo qui è arrivato Parenzo. Cioè David Parenzo, uomo di sinistra, certo, siccome è diventato di un moralismo spaventoso, certo, propone le multe per i clienti delle prostitute, le multe. Ma non è moralismo, usare un minimo di intelligenza. Ma ragazzi, ma state veramente, adesso io capisco, Sberna. Io non concordo con Parenzo, perché sta praticamente dicendo che è la stessa cosa, la dicevo prima. Sotto, no, dico che purtroppo che andare a prendere i diamanti mandarini, insomma, siccome no, in Italia, donne, scusami, quando un'azienda assume dei lavoratori in nero e li cosa sfrutta, l'azienda in genere viene chiusa, non è che se si scopre che l'imprenditore li assume in nero, ma li cosa sfrutta, c'entra? Li ma sono cose diverse. No, ma come è diverso? Perché è diverso? Io non attribuisco al corpo il valore che attribuisce il nostro amico, dico però che siccome il dato alla di persona, fatto è non al corpo, la persona. Alla persona, certo, però la dignità umana per me deve essere valorizzata. Ragazzi, la dignità umana per me deve essere tutelata, secondo me. Io penso di sì, la dignità umana deve essere tutelata. Ma che vuol dire? Ma allora, è chiaro partendo, che deve, chi dice il contrario? Ma chi dice? Tu sei un malvissuto, perché sei culturalmente un ragazzi, malvissuto. Ma veramente volete ribellarvi, ascoltatori della Zanzara, contro questa follia? Io capisco Sberna, che ha la sua cultura, la sua formazione, che lo porta a sperare che la prostituzione scomparirà ma nel futuro. Ma io non dico questo. Vabbè, d'accordo. Tu dici innanzitutto sono... Ho detto che diminuirà drasticamente, perché la Svezia, l'Islanda e la Norvegia sono lì dimostrate. Ma quando c'è mai? Una direttiva europea, siccome siamo vabbè, lasciamo perdere l'Europa. Ecco, c'è una direttiva europea che chiede agli stati membri di adottare la stessa misura. Mario Sberna e con gli altri. Scusi, per lei si può io dico scopare, lo dico direttamente così, senza amore? Evidentemente no, non è un modo umano di vivere l'affetto. Cioè chi fa l'amore, chi scopo, utilizzate la parola che volete. Io dico chi tromba senza provare affetto, che cos'è? Una bestia, secondo lei? Ha ceduto semplicemente a quella parte che passa sotto il suo ombelico e si ferma lì, non va da nessun'altra parte, gli manca tutto il pezzo sopra che è il cuore e la mente, gli manca questo, e questo non è essere umano, non è la persona completa. E che cos'è? Che cos'è? Che il legislatore deve guardare. Tornare con Sberna, che poi ci deve lasciare perché deve prendere un treno, so tutto Sberna, so tutto. Voglio raccontarvi una cosa. Allora, nei giorni scorsi, anzi in questi giorni, si sta parlando moltissimo negli Stati Uniti di un caso che riguarda un giocatore di football americano che si chiama Peterson, un giocatore molto famoso, molto conosciuto negli Stati Uniti. Che cosa ha fatto questo signore? Questo signore a un certo punto, durante una situazione familiare, ha preso un ramo da un albero e ha picchiato il figlio. È stato denunciato non dalla moglie, insomma, da altre persone, messo sotto accusa, eccetera, eccetera, eccetera. Poi la squadra lo ha sospeso a tempo indeterminato, prenderà comunque lo stipendio. Esploso un caso perché uno dice: ma scusa, io a casa mia faccio quello che voglio, cioè io a casa mia mio figlio lo educo come mi pare. Come mi pare, io per esempio, devo dirti la verità, Parenzo, sono stato educato quando ero piccolo anche a cinghiate, cioè mio padre mi prendeva a cinghiate. No, ma è giusto, se ne vedono troppo poche, evidentemente, perché se ne vedono gli effetti. Può darsi, dopo si pentì, mio padre io adesso è morto, ma si pentì. Io ti voglio dire dai miei genitori. Mi fai finire? Allora, non ho mai ricevuto neanche una sberla in faccia, mai. Una volta uno sculaccione del sedere. Allora, non è, la cosa non è. Negli Stati Uniti hanno tutto un altro tipo. Hanno un altro tipo di approccio negli Stati Uniti, però mio padre mi frustava, prendeva la cinghia e mi picchiava. Ovviamente la cosa non è ogni giorno così, però succedeva questo. Beh, questo spiega molte cose, però. Può darsi che spieghi molte cose. Non sei mai andato dallo psicanalista, no? No, mai, per fortuna no. Sarebbe ucciso lo psicanalista. Probabilmente sì. Quarto piano, però un conduttore radiofonico americano che si chiama Sean Hannity, che è un conduttore radiofonico conservatore, molto conservatore, ha detto una cosa incredibile. che però non è sbagliata, non è sbagliata. No, ma non è sbagliata. Immaginavo. Perché lui dice: ma insomma, come si fa a condannare un metodo di educazione? Come si fa a condannare un metodo di educare un figlio? Che può essere anche le botte, se vogliamo. Ovviamente, cosa diversa se uno lo dice in fin di vita a un bambino, uno gli fa male. Insomma, anche le botte. Io sono stato picchiato con la cinghia, nessuno ha mai pensato di denunciare mio padre. E altre persone con cui ho parlato ieri, anche qui a Radio 24, anche mio padre mi dava delle cinghiate addosso. A me mai. A te mai. D'accordo, ma a me neanche uno sculaccio. Cioè, no, attenzione, neanche... questo conduttore ha detto: adesso ho paura, se viene condannato questo giocatore che si chiama Peterson, ho paura che non si possa insegnare ai figli che i gay non sono normali. Senti, è in inglese, ma si capisce tutto, Pure io l'ho capito. You know, I got to tell you, this is my problem with liberals, because here's where my fear goes with all of this. You guys want to tell parents what they can and cannot do. For example, is it going to become illegal if a parent teaches the politically correct view that being gay is not normal? Yep. Or if a parent says that, you know, whatever the parent wants to teach a kid that you would disagree with. Right. Cioè, si potrebbe arrivare al paradosso, lui dice, si potrebbe arrivare al paradosso che ti condannano perché dici a tuo figlio, insegna a tuo figlio, guarda che i gay non sono normali, cosa che tu hai il diritto di dire a tuo figlio, no? Sberna, lei darebbe le botte a suo figlio? Ma le botte con un tronco d'albero, no? No. Però è evidente che qualche sculaccione l'ha avuto i cinque e li ha presi. Ah, lei anche a sculacciate le ha educati i figli. Magari ha tirato fuori pure la cintura qualche volta, no? Ma no, stia scherzando, insomma. Vabbè, ho capito. È ovvio che c'è il momento in cui alzi la voce, cioè quando proprio l'avevano fatto. Ma è sbagliato condannare questo signore perché picchia il figlio con un ramo d'albero, secondo lei? Beh, insomma, con un ramo d'albero direi proprio di sì, insomma, ci sarà bene ad alzare, è un colosso, ma che alzi la voce, che si faccia sentire, che si faccia rispettare, no? Insomma, non è che, beh, sono bambini, non è che le combinano. Comunque, lei, a proposito della questione delle prostitute, è capace pure di reintrodurre il delitto di adulterio, secondo me, Sberna. Oh, dai, fanno scherzare. Ma sì, sì, Sberna, sei capace di reintrodurre pure il reato di non diritto, il reato di adulterio. No, sicuro. Ma veramente tu pensi che un cliente possa finire in galera? Cioè, che davvero tu pensi che uno che va a prostitute? Guarda, se uno arriva una volta e te l'ho detto, la seconda, guarda che questa è una donna, non la puoi trattare come un cagnolino, e la terza te l'ho detto, alla quarta fai come i bambini, è la stessa cosa, perché siamo probabilmente a questo livello. Alla quarta gli dici: ascolta, guarda, fai ma bravo, chi vai, lo dice? Ma... di recupero, mettiti a posto il cervello, perché se non hai ancora capito che cos'è una persona, un essere umano, hai veramente. Ma io che sono andato in un bordello in Svizzera un paio di volte, che cosa sono? Un malvissuto, come dice Parenzo? Un malvissuto? Sì, mi spiace dovertelo dire, ma effettivamente andare in un bordello in Svizzera credo che sia che tu abbia qualche problema, insomma, perché. Ma non ho nessun problema. Cioè, ma non per questo. Mi sono divertito come un pazzo. Mi sono divertito come un matto con i miei amici, mi sono divertito come un pazzo. Ma voi non potevate divertirvi su degli esseri umani. Voi se volete potete divertirvi non si può fare pubblicità. Sui cose, lì, sui tornado, divertitevi in altro modo, ma senza coinvolgere persone. Ma quelle donne guadagnavano dei quattrini. Una donna ha il diritto di prostituirsi per guadagnare denaro? No, io ribadisco, non ha nemmeno quel diritto. Se tu sei un bravo educatore, se tu pensi al bene della persona nella sua interezza, non ha nemmeno quel diritto, perché non è il fatto che il ricevere dei soldi per poi soddisfare desideri tutti io i materiali ho parlato dei casi sia di una violenza, buona giustificazione. No, ma io invece vado di più, ovviamente, Parenzo. Per me deve essere in grado di fermare queste cose. No, ma non devi specificare niente, già tutto chiaro. No, hanno condannato. Stai zitto un attimo, togli l'audio un attimo. Hanno dato 17 mesi a una bruna in Trentino, Sberna. 17 mesi a una signora che teneva un bordello. Ma le pare possibile a lei una cosa del genere? Sì, come se mi pare possibile, anzi troppo prima, poco, dice lei. Prima dovevano mandarla ad un corso di recupero, effettivamente. Servono i corsi di recupero. Hanno bisogno di aiuto, effettivamente, perché se non hanno capito la dignità dell'essere umano, dopo che vivono sulla Terra da almeno, non so, 30, 40, non so quanti anni avessero. Io non voglio tornare, 63. Dopo 63 anni, ma insomma, evidentemente il soldo ancora una volta dovrebbe vincerla su tutto, mentre invece non è così. Scusi, anche i drogati potrebbero andare in galera perché alimentano gli spacciatori, allora? Secondo questo ragionamento. Secondo il suo ragionamento, anche i drogati vanno in galera perché alimentano gli spacciatori. Il ragionamento, che è uguale a quello delle prostitute, è vietato drogarsi, cioè farsi dei buchi di eroina. È vietato perché vogliamo il bene della persona. Il bene della persona non è farsi un buco di eroina. Ho capito, ma scusi. Allora, questo è il compito del legislatore. D'accordo, legislatore, ma allora lei li manderebbe in galera. Li manderebbe in galera allora i drogati. Ma non manda in galera neanche quelli delle prostitute. Se prima fanno un bel corso, facciamoglielo fare. E se questi qua continuano a farsi di eroina, lei li manda in galera? Non lo spaccio, no, se questi... infatti li mando nelle comunità e cerco di recuperarli. Cioè lei farebbe le comunità, lei farebbe delle comunità, le comunità di recupero, le comunità di recupero dipendenti, no, degli alcolisti e anche dei cosi farebbe. Dei prostituzionisti, non so se si può dire. Cioè italiano, anche dei clienti delle prostitute farebbe delle comunità di recupero. Certo, perché è lo stesso tipo di malattia. Ma scusi, ma se uno è a casa a un certo punto e ha voglia di scopare, beh, sberna, glielo dico chiaramente, e dice: ma non ho una ragazza a disposizione perché sono brutto, perché non mi vogliono. Non ha neanche una capra. Non ha neanche una capra. Però c'è. Ma chiama una per telefono, perché ormai lei funziona così, non è che stanno solo per strada, no? Chiama una per telefono, un escort. Non arriva a chiamare una per telefono, perché quell'una non è una. Quella è una persona umana che non può essere mercificata. Vabbè, ma una ragazza, no, mercificata. Una bodyguard, una ragazza la paga 1000 euro, la più bella di tutti, 1000 euro, la fa venire a casa. Io conosco pieno di manager industriali che fanno così, ha capito? Sì, pieno di manager industriali. Chiamano 1000 euro e fanno venire una russa a casa, una russa, un'ucraina, cioè la fanno venire a casa. Parenzo, che c'è di male? Perché fai. Che cosa? Che c'è di male? È un essere umano quello lì. Guadagna 1000 euro in mezz'ora, in un'ora, sberna. Ma è mica un canarino, ma insomma siamo qui a fare le grandi difese dell'orsa che è stata anestetizzata e poi praticamente uccisa con l'anestetico e non siamo capaci di difendere. Vabbè, la vita, uno che sta a casa così ha voglia, che dovrebbe fare oltre a usare la mano sinistra? Anche l'orso aveva voglia di sbranare. Oltre a usare la mano sinistra, come lei ha detto, che cosa può fare altrimenti? Che cosa può fare? Costruirci un buco dentro casa? Si fa una bella doccia fredda, cosa vuoi che ti dica? Che ne so? Una bella doccia fredda. Lasci stare gli esseri umani. Lo sfruttamento delle persone non è accettabile. Siamo nel 2014. Non passerà mai questa cosa, Sberna. Non passerà mai. Ah, probabilmente è vero quello che dici, però io ne resto convinto. Lei è disposto a lavorare prima la persona, prima la dignità della persona. Lei è disposto a lavorare di più, come dice la Boschi? Oppure è una stronzata quella là di lavorare di più alla Camera e al Senato? Insomma, quando lei era deputata non mi sembrava che lo dicesse, ma lavorare di più dipende da che cosa intendiamo, perché se facciamo 40 ore nei 3 giorni e le facciamo nei 3 giorni che lavoriamo, più il viaggio all'andata e al ritorno, che quando io lavoravo nella mia cooperativa precedente era considerato orario di lavoro, vedi che facciamo comunque. Ma sì, mi pare questa cosa di far lavorare i deputati mi pare una stronzata, dai, su, è chiaro che bisogna lavorare. È una stronzata, perché semplicemente perché lavoriamo, cioè queste ore le facciamo. Dopodiché ci sono altri colleghi, io no, perché non ho mire espansionistiche future, però ci sono altri colleghi che giustamente vogliono continuare a candidarsi e quindi ad avere anche un collegio, e bisogna considerare che il venerdì, il sabato e la domenica fanno anche quello, insomma, non stanno a casa con i figli come ci sto io, ma ci sto con la coscienza libera di aver fatto in questa settimana, le ho contate, non mi aspettavo la domanda, però le ho contate, ho fatto, viaggio compreso, 53 ore. Va bene. Fatte, proprio presente, 53 ore. Quando lavoravo prima ne facevo 38. Quando lavorava prima, dove? Nel suo mestiere, prima di fare il parlamentare? Cioè lei lavora più adesso che di quanto lavorate? Se considera, dopo certo che quel lavoro era più soddisfacente, era più produttivo, come si dice. Però le ore che ci butto dentro qui quando sono giù a Roma, cioè sono di più di prima. Sono alle di più 9 di, prima. Di sera sono di più, insomma. Va bene, Sberna, grazie, a presto. Grazie. A voi, come del treno. Ciao, arrivederci. Ciao. Attento al DDT, sai? No! confronto tra Geni, Salvo Mandarà, Carlo Taormina. Sentite. Allora, siamo in compagnia dell'avvocato Carlo Taormina, che ringrazio per essere qui ospite di Salvo 5.0. Avvocato, volevo rubarle qualche minuto perché in rete ho trovato delle informazioni che riguardano il Principato di Filettino, di cui lei è, secondo quello che ho trovato in rete, il principe reggente. Siccome non sono stato in grado di trovare molti dettagli, ecco, cosa mi può dire di questo principato? Ma io le posso dire che è un antistato che ha una sua radice popolare, perché noi abbiamo fatto un referendum a Filettino. Cioè, è tutto vero, Parenzo, eh? È tutto vero. Ma dov'è finito? David? David? David, arriva. Sì, ma c'è una trasmissione radiofonica, dovrebbe ascoltarmi ogni tanto. Scusa, Parenzo. In diretta alla radio, aspetta. Parenzo, io ti ho interpellato, sì. Tu non c'eri, mi ha risposto un altro. No, non c'ero perché sono in diretta, mi stanno chiamando dalla BBC. Ma non me ne fotte nulla di quello di chi ti sta chiamando. Dimmi. Vedo per esempio che Maroni e Zaia stanno facendo questa iniziativa per il distacco di Lombardia e Veneto dall'Italia. Ecco, io ho detto già a Maroni e a Zaia, dico, guardate, pensate alla costituzione di organismi qualificabili come principati, come o qualsiasi altro modo, comunque che stacchi rispetto alla logica dello Stato. E io penso che ci stiano pensando. Sicuro, Maroni e Zaia stanno pensando ai principati, già hanno tanti problemi con la Scozia, col Veneto, stanno pensando ai principati. Dice che hanno fatto anche le targhe? Hanno fatto anche le targhe a Filettino. Ma avvocato, guardi, le dico una cosa che magari, se poi lo desidera, potremo approfondire in futuro, ma mi risulta che ci sia già una comunità in Veneto che ha già fatto un soggetto giuridico nuovo con tanto di passaporti, targhe automobilistiche, sono andati proprio a sì, Ginevra. Sì, sì. Esiste ma già qualcosa? Anche noi l'abbiamo fatto, ecco, anche noi appunto, l'abbiamo fatto. Appunto. Quindi anche noi abbiamo fatto le targhe. Ecco. Beh, certo. Francesco da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani. Dimmi. Solo una cosa, se mi dovete far intervenire alle 8:20, non mi chiamate alle 6:30 per cortesia. Prego, vado avanti, prego. Sì, detto questo, guardi, a proposito delle lucciole su questo argomento, le dico subito, userò immagini e parole forti, ma per esprimere contenuti forti non voglio in alcun modo essere volgare, guardi. Sì, sì. Primo, lei ieri ha paragonato, ha detto che la prestazione di una lucciola deve essere equivalente a prendere del caffè a un bar. Mi scusi, ma per lei davvero una tazzina di caffè può essere equivalente alla vagina di una donna staccata dal corpo e dai suoi sentimenti? Guardi che il sesso è un linguaggio nel vero senso della parola, cioè serve. Senta, per comunicare se ci vogliamo mettere a discutere del sesso, possiamo iniziare adesso e finire domani mattina. Il punto non è questo. Sto dicendo semplicemente, ho detto semplicemente che andare a prostitute, andare in un bordello, eccetera, è come, nella mia visione, andare entrare in un bar e chiedere un caffè, chiedere un cappuccino, chiedere una. Appunto, guarda, non mi pare esattamente la stessa cosa. Ma se per lei non è lo stesso, va benissimo. Per me è la stessa cosa, dovrebbe essere così. Uno compra il caffè e compra il sesso. Uomini, donne, trans, quello che vuole, non è solamente riferito uomo, donna. Le dico pure di più. In un rapporto, cioè, ci possono essere anche per me giochi erotici, anche forti, non violenti, ma devono esprimere qualcosa. Il sesso, ma se per lei, il sesso ma... a pagamento è svuotato, sì, di tutti i sentimenti. Sì. Anzi, se vuole, ecco, posso rivolgermi. Qui c'è il neo borbonico, il neo papalino Parenzo che le può dare una mano su questo ragionamento. Non dire stupidaggini. La può accompagnare su questo ragionamento bene ormai. Il neo borbonico Parenzo la può accompagnare su questo ragionamento. La può aiutare. Non allora, sono Francesco, assolutamente d'accordo. d'accordo, ho detto che voglio combattere le persone che sono sfruttate, fine. Oh, mamma ho detto mia. Che a differenza tua quello ci pensa la polizia, per fortuna, a combattere lo sfruttamento e il racket, ci pensa la polizia, ci pensa la polizia, ci pensa la polizia, non sberna e nemmeno Parenzo. Per me uno che si ferma sul ciglio della strada e tira su una prostituta, perché uno che chiama per telefono che fa? Aspetta, tira su uno che chiama per telefono è un altro problema. No, ma che differenza c'è? È uguale. Dipende. Ma è uguale, che dici? Che ne sai? Può essere sfruttata una e può essere sfruttata l'altra, se c'è la criminalità, certo, è uguale. Ma che ne sai prima se c'è la criminalità? Ma sei pazzo? A cui viene puntato un coltello alla gola. Ma quello che c'è? Ma il cliente che ci va, è il cliente. Ma come fai a saperlo? Ma come fai a saperlo? Ma sei completamente pazzo. Come fai a saperlo? Lo sfruttamento criminale. Ma ti rendi conto, no? Della siano essi. Ragazzi, io veramente, donne. Ribellatevi, c'è gente detto, che si ribella su Twitter alle tue banalità sesquipedali, ma no, hai detto una cosa ridicola, siccome che bisogna combattere il racket. Ma è alta per forza, anche a prescindere. Ma è normale che bisogna combattere il racket, ma allora chi dice il contrario? E allora dillo. Ma lo do per scontato che bisogna... Io ho detto semplicemente che se uno va con una prostituta incredibile. E si accerta che questa prostituta è vittima dello sfruttamento, perché tu quando vai con la prostituta vai e dici, scusi, lei è sfruttata, pronto prostituta, lei è sfruttata, il 70%, dai, su, ma siamo veramente alla ridicolaggine. Io capisco che devi mandare tutto in vacca, ma il 70%, fammi sentire Francesco che forse è paradossalmente più interessante di te, guarda Francesco quelle da Roma che ha già che detto una stronzata, è paradossalmente più importante e più interessante di te. Non ho frequentato, sono andato lì e non erano per niente sfruttate, ci sono delle cooperative, ci sono delle persone dipendenti. Calmati, così ti sfoghi e ci andrai, ci tornerai, calmati, toglietemi questo deficiente, va Francesco, dai. Io vorrei fare proprio un appello a chi vuole andare, a chi è una donna e vuole andare alle prostitute. Guardate, ravvivate il vostro rapporto con la vostra donna, non andate dalle prostitute. Trovate anche qualche giocatore. Ragazzi, ma veramente siete la follia. Ma siete veramente la follia tutti quanti. Siete veramente. Quello è diventato ormai peggio del Papa. Parenzo è diventato peggio del Papa. È diventato peggio del Papa. Posso dire quest'ultima immagine? Voglio dare. Dimmi. Uno che vuole andare a una donna che non è la sua, dico lasci perdere, provi a rivivare il rapporto con la sua donna, segua anche un'indicazione indiretta che ha dato Cruciani, provi anche qualche gioco retico forte, per esempio prenda una tazzina di caffè ma non al bar, la chieda direttamente alla sua donna, direttamente dalle sue labbra per esempio, e non mi riferisco a quelle della bocca, però si ricordi che quella tazzina di caffè non costa un euro ma costa dei sentimenti, degli affetti, costa una vita convissuta e non malvissuta. E poi chi non ce l'ha una donna, chi sta solo, sì la situazione lì è un po' più complicata, ma anche mi posso dire qualcosa. Io mi ricordo una bella canzone di Alberto Fortis, Teorema, che diceva alla fine, guarda che probabilmente una donna già c'è in cerca di te, quindi ricordati che per te il caffè forte è solo rimandato. Sì, vabbè, d'accordo, ma per carità, ma va tutto bene Francesco, l'amore, le cose così, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa. C'è gente che pensa di punire i clienti, hai capito? Questo, no? Allora, e Parenzo è d'accordo, con la punizione perché dei clienti, perché che il 70% sono sfruttate, cosa che non è vera peraltro, il 70% sono sfruttate, allora tu devi sapere che sono sfruttate e non ci devi andare. Ragazzi, vogliamo veramente dire alla Zanzara, che bisogna questa frase, che bisogna colpire lo sfruttamento? Cioè, Parenzo, tu vuoi ripetere la stessa frase alla Zanzara, che di una banalità sconcertante, che bisogna colpire lo sfruttamento e racket? Lasciamo stare il problema delle prostitute. È sparito, che ha fatto? Sei andato, che ha fatto? Sono qua. Ah, sono te. Sei qua. Ma sei scemo proprio, allora. Ti ho detto un'altra cosa. Sì. Allora, non sono d'accordo con le follie che dice questo qui, perché ovviamente non dice follie, non dice affatto follie, dice le cose più interessanti delle due, come vuole, con amore, senza amore, ma che stiamo scherzando? Ma almeno una coerenza quello che dice. Dice follie, ma almeno devi sempre esagerare ogni concetto, cioè è il tuo modo di fare, lo sappiamo. Dopodiché ho detto, poi ti faccio un altro esempio. Compri un oggetto che è venduto ed è criminale, ma gestito dalla criminalità, commetti un reato o no? Cioè, nel piccolo, se tu vai ad esempio a Napoli e compri le sigarette, ti stai già stufando, vabbè, dai, manda il traffico. Dimmi. Compri le sigarette al contrabbando, commetti un reato oppure no? Se le compri da uno che le vende in nero, nel piccolo, piccolissimo di quella economia, ovviamente, no? Sì. Ecco, allora, a maggior ragione se parli di persone, cioè se tu ti rendi complice di uno sfruttamento, me devi essere punito. Bene. Tutto qua. Grazie. Non mi pare di aver Enrico da Ancona. così scandalosa. Enrico D'Ancona. Dopodiché sono a favore dell'apertura delle case chiuse con Enrico tutte le regole D'Ancona, che ci guarda, la tristezza mi viene, guarda. Enrico D'Ancona, mi viene più tristezza che altro, guarda. Enrico, mi dispiace per te, lo so, che devi fare, mi viene tristezza. Enrico D'Ancona. Mi dispiace che ti venga tristezza. Mi intristisco di fronte a queste banalità. Che devi andare a pagare un po' in Svizzera. Enrico D'Ancona, no, ci sono andato solo due volte in vita mia, caro, perché per fortuna non ho bisogno, capito? No, non c'è, non devo svuotare nulla. Qualcosa, no, vede, no, caro, non c'è, fai benissimo andare non lì ho pagare, bisogno, amico mio, non ho bisogno, capito? Non dire stronzate, non ho bisogno. Enrico D'Ancona, fai benissimo andare sono lì, molto, vai. Da questo punto di vista sono molto, non sono mal bisogno, paga, ben paga. Vissuto. Sono vai, ho pagato e mi sono divertito. Allora qual è il problema? Sono felice. Qual è il problema? Secondo me ci devi tornare. No, no, no, no, ho pagato, mi sono divertito. Qual è il tuo problema? Qual è il tuo? Sono mal vissuto? No, non credo, capito? Enrico D'Ancona, non dire stronzate, moralista del cavolo. Vai lì e paga. Enrico D'Ancona, divertiti. No, non ho bisogno, non ho bisogno. Bisogno. Enrico, vai. Hai già detto che devi andarci, vai. Enrico, vai. No, non ci devo andare, Cruciani. Non ti preoccupare, Enrico, vai. Cruciani, Oraccio. Hai tutta la mia solidarietà, ma come cazzo fai a sopportare un soggetto così? Ma che devo fare, amico mio? È che impossibile, devo fare? È impossibile. Buonasera. Dimmi. Ho chiamato per... Da dove chiami, scusa? Dalla Luna? Da Marte? Da dove chiami? Sono ancora in macchina in giro. Allora, togli il viva voce, accosta un po' la cornetta del telefono alle labbra, fai quello che vuoi. Usa le labbra giuste, però. Mi senti? Sì, ti sento, vai, più o meno. Vai. Ti dicevo, chiamavo in merito al Tarzan mancato su di Varese, di dov'è. Secondo me, quello lì è il classico esempio dell'Italia fancazzista che blocca tutto. Questi devono seguire quei quattro cipressi che non c'entrano una mazza in quel giardino francese e li segassero. Non si può fermare il lavoro di chi deve essere fatto perché lui era abituato a riposarsi sotto lì. Basta, quelli non c'entrano niente, sono fuori contesto, li devono segare, tutto lì. Basta. Ciao Enrico. Può darsi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, mi fate ridere, siete troppo simpatici. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. Pellegrin, Radio Padania, non mollano, non mollano. Forse qua abbiamo commesso un errore perché diamo troppa luce a Radio Padania, pure il direttore di Radio Padania, anzi della Padania, che dice delle cose contro di noi, non so che ha detto, la Padania, il direttore della Padania contro la Zanzara, che mi dice delle cose sulla nostra, direttore della Padania, capito? Aurora Lussana, cioè Lussana, contro di noi, dicendo quella trasmissione lì, il direttore della Padania, cioè Lussana, voi capite a che punto siamo arrivati, no? Guarda. Dai. Pronto? Sì. Pronto? Bossi, Radio ancora... Padania libera. Allora... No, Radio 24, lei è ancora a Strasburgo? No, allora io sono qui a Salisburgo. No, e... come? Però... Non è Salisburgo, lei si è trasferito nel frattempo da Strasburgo, sì, a Salisburgo. Esatto, ma no, è Edimburgo! Ma stai zitto che non capisci niente. Allora, sono qui a Salisburgo. Il problema è che non capisco perché non ci sono questi con le mani, con i banchetti per votare. Ma no, perché l'Austria, sì. Quella è Salisburgo. Ma stai a Salisburgo libera. Allora, Strasburgo l'abbiamo liberata poco fa. Ora siamo a Salisburgo. Adesso andiamo a referendum a San Pietroburgo. Ma Edimburgo, lei deve andare a Edimburgo. Renzo, ho sbagliato la cartina. La geografica, sto girando tutto l'Europa e fa una roba pazzesca qui. Comunque adesso stai zitto, io voglio liberare Edimburgo, Salisburgo, abbiamo detto. Vabbè, cerchi di andare a Edimburgo prima di stasera, almeno cerchi di arrivare. Non è che si vota, no, si sta votando, stanno per chiudere i seggi. Hanno votato? Sì. Ma dove hanno votato? Dove? In Scozia, Bossi. E dov'è la Scozia, cazzo? Niente, io arrivederci, grazie. Cerchi di arrivare. Defecano, scusate l'ora, siamo un'ora di pranzo, l'argomento è scatologico, però è la notizia questa, così sta scritto, Simpliciter. Defecano sotto i portici della galleria di Corso Garibaldi, si lavano la fontanella e sporcano, lordano, insozzano. Loro sono una famiglia rom che ha letto il luogo con le panchine a posto in cui pernottare. Girl, you really got me now. You Ovviamente Pellegrini si riferisce ai Rom. E poi continua ancora sulla mia omertà. Sentite. Io questa omertà sinceramente mi colpisce, mi ferisce, mi delude, mi deludi, Cruciani. Non avere nemmeno il coraggio di dirci quanti soldi prendi, 500, 300, 1,5 milioni di euro, non ha importanza. Mi auguro che tu ne prenda 10 di milioni, però potresti dirlo, sono soldi nostri, e te li dà Confindustria, per quello sono soldi nostri. Sono deluso, sono veramente deluso. Potresti dirlo, cosa ti costa? Tanto sei talmente pieno di soldi che non ti costa niente dirlo ai tuoi ascoltatori. Gianluca da Livorno. Gianluca? Senti? Dimmi. Sì, Cruciani, buonasera. Niente, premetto che non sono d'accordo con il 95% delle cose che dice, però stasera mi sento di sostenerle in pieno, perché sentire il deputato, se non mi ricordo... Sberna. E le cazzate che dice lui, le cazzate alle quali si accompagna il tragico Parenzo, non si possono veramente sentire. Cioè, pensare di colpire i clienti del prostituto mettendoli in galera, cioè, mi sembra veramente una cosa assurda. Forse Parenzo farebbe bene a cambiare mestiere. Ma no, non bisogna per forza cambiare mestiere, cioè, è una questione di follia totale, ma comunque. Non ho detto in galera. Ma hanno perso. Vabbè, punire, dai, punire i clienti. Non ho detto dai. In galera, beh, è diverso, io sono contro la galera, figuriamoci. Sì, anche punire per i clienti, multare i clienti. Sei a favore di quei sindaci che sono ogni tanto si inventano le ordinanze. Dai. Che multano i clienti. Ah, tu sei. Sei a, favore, sei a favore di quei sindaci che multano i clienti? No, ma non solo, che li multano e che mandano la multa a casa per giunta anche. Ma da quando? Io abbiamo fatto mille trasmissioni su questo, non sei mai stato d'accordo. Ho mai detto che sono mai, a favore della prostituzione regolamentata. Mai, mai stato d'accordo. Qualora questo non dovesse avvenire, cosa che purtroppo tragicamente succede, mia, il male minore qual è? Ragazzi, quello di colpire lo sfruttamento. Che tristezza, ma devo ripeterlo ancora. Che colpire lo sfruttamento. Che tristezza. Come si fa? O si legalizza. Nado Palermo, poi abbiamo un ospite, Nado Palermo. Sì, volevo dire che tristezza, hai perfettamente ragione, Parenzo e Berna sono di una tristezza unica. Ma proprio infinita, non unica, infinita. Cioè punire con le multe, Parenzo è riuscito a dire stasera che bisogna mandare le multe a casa dei clienti, ma vi rendete conto o no? Il liberale, come fanno i sindaci leghisti ogni tanto, leghisti no perché adesso hanno avuto una svolta, come fanno i sindaci in qualche paese del nord? Che mandano le multe a casa, così la moglie dice: ah, sei andata a prostitute, così non ci vai più, e così si risolve il problema della prostituzione. Vergogna. Nado, dimmi. Niente, devo dire la mia esperienza in Germania, sarò andato una decina di volte. Malvissuto, allora, malvissuto, sì, porco, sì. Perverso, maledetto, fai schifo, sei una merda, fai schifo, Nado, fai schifo. No, non ci si può divertire, fai schifo, hai sfruttato qualcuno, fai schifo, malvissuto, allora. Hai problemi sessuali. No, assolutamente no. No, sì, sì, cioè, lo dico io, però non hai il coraggio di dirtelo, perché non hai il coraggio, ovviamente. No, malvissuto, è andato 10 volte a puttane, malvissuto. Ma non glielo posso dire perché non lo penso. Non lo pensi, invece di me lo pensi, di lui no. No, penso che se vi volete divertire andando a prostitute all'estero, mi va benissimo. Come spendete i vostri soldi? A me vabbè, interessa dai, poco, Nado, dimmi, Nado. Nado, dimmi. Posso parlare all'estero perché non c'è in Italia, perché in Germania sono questi FKK dove che mettono la decisione nella casa, guadagnano sull'ingresso dei ragazzi, dei signori che pagano 60 euro e possono essere una giota 100, 150 e sull'ingresso delle ragazze che sono assolutamente libere e pagano anche loro l'ingresso. Il proprietario della casa mette a disposizione la stanza, quindi le ragazze scelte libere. La settimana per il resto della settimana fanno tutt'altro, studiano, chi fa un'altra cosa. Poi non si può, non è che sia il Bengodi, è evidente che in questi paesi esiste anche lo sfruttamento. Magari di soldi e lo fanno, ma sono scelte libere. Dico, poi magari in Italia questo non potrà succedere perché sappiamo che la situazione è Nado, è chiarissimo. Grazie. Oh, è con noi in collegamento da Parigi, ha fatto scandalo in questi giorni, Daniele Puppi, buonasera. Buonasera. Come stai? Tutto bene, procede. Artista, autore di Happy Moms, una installazione che è stata considerata pornografica, proiettata su una parete, su un muro a Roma di un palazzo. Cosa c'era in questa installazione, in questa opera, Daniele? Ma guarda, rimango molto, molto basito, perché questo lavoro Happy Mom che tu dici è stato presentato l'anno scorso al Museo Maxi. Nel 2000, ottobre del 2013 l'hanno visto migliaia di persone, addirittura un blogger americano seguitissimo l'ha definito 5 tra le mostre da non perdere nel mese di ottobre nel mondo. Presentato poi in Australia alla... No, ma d'accordo, questo lo sappiamo, ma che cosa c'è in questa installazione? C'è quello che uno praticamente è in grado di vedere. No, vabbè, dimmelo, descrivicelo, tanto qui non è, si può parlare in maniera piuttosto... Allora, è una registrazione, è un lavoro sullo spazio ed è praticamente un film che dura 45 minuti in movimento. Sì, no, okay. Però le immagini che hanno fatto scalpore, in cosa consistono? Che cosa c'è in queste immagini? Le immagini che ha fatto scalpore sono immagini fotografiche, ma non c'entrano nulla con il lavoro, perché il lavoro in movimento nessuno riesce a percepire, cioè deve solamente, entrare e fare un'esperienza di tipo... No, d'accordo, però sono state proiettate delle immagini e la gente si è incazzata, sono arrivati i carabinieri, eccetera, l'altro giorno a Roma, no? La gente si è incazzata perché non è stata avvertita, perché il problema era quello lì. Ho capito, però le mostre di solito si fanno all'interno dei locali, io sono la persona più aperta del mondo, però se uno mette dei culi enormi, delle dita che entrano dentro gli organi genitali, a passare la... Luciani, non erano culi, tu probabilmente sei stato informato male. No, ho visto le foto, ma va bene. Ma le foto non c'entrano, perché le foto fanno il freeze al lavoro, ma il lavoro è in movimento, quindi non è sì, ma sarà in movimento, ma lasciamo perdere il lavoro. Ci sono state proiettate una parte di questo lavoro, un passaggio di questo lavoro è stato proiettato, giusto? Allora, no, non è così, te lo spiego un po' meglio, perché vorrei che fosse abbastanza chiaro. Allora, questo è un lavoro sullo spazio, okay? una mega proiezione all'interno del Museo del Macro, che era il terrazzo, ma era comunque sempre un museo macro, ok? Allora, il lavoro in questione è un lavoro in movimento. No, sì, è d'accordo, però... un'immagine, scusami. No, ti spiego sì, in pochi secondi. Un'immagine, sì, il movimento sì, che gira ad alta velocità, e per il fatto che gira questa ad alta velocità, entri praticamente in un mondo meraviglioso tra l'organico e l'inorganico. Non è possibile... L'organico e l'inorganico, sì. Siccome sono le 20:46, noi l'organico e l'inorganico va benissimo, tutte queste spiegazioni sono meravigliose. Quali sono le immagini contestate? Questo volevo capire. Non ho idea, perché io sono andato via il giorno dopo. Ma io vedo qua delle immagini pazzesche di sederi, di mani che entrano dentro, ma va benissimo per me, però dentro le mostre tutto questo. Te lo ripeto, questa è una cosa che non c'entra nulla con il lavoro, perché le immagini scattate non appartengono al lavoro. Cioè, sarebbe come leggere un libro e soffermarsi sulle parole cazzo o fica, ma il libro va letto nella sua interezza, se è un'opera d'arte, se è un'opera integra, diciamo, nella sua interezza va visto, va sentito. Sì, d'accordo, però il video contiene immagini pornografiche, sì o no? Non contiene immagini pornografiche. No, allora che cosa è stato proiettato? Sono immagini per educande, sono talmente... Cioè, quali pornografiche, considerate pornografiche, quali sarebbero queste? Sono considerate da qualcuno che l'ha visto e probabilmente l'ha visto male o... Beh, io sto vedendo qui delle immagini e possono essere considerate anche pornografiche, io poi le considero assolutamente legittime. Le immagini che tu stai vedendo non sono immagini in movimento, sono immagini, come dire, fisse. Le immagini fisse non c'entrano nulla col lavoro, perché sennò non sarebbe un film. Cioè, quando va a vedere un film va a vedere, come dire, immagini, come dire, in movimento, no? Cioè, i famosi 23 fotogrammi al secondo che hanno bisogno del movimento, ma non c'entra nulla. Cioè, un conto è una fotografia, un conto è un lavoro in movimento, è un conto è un lavoro sullo spazio. E allora? Che diventa un'esperienza, perché poi c'è anche il suono. Sì, molte persone sono rimaste più che altro fastidiate dal suono, perché nessuno del museo si è preso la briga di avvertire che c'era questa proiezione. Ma comunque rimaniamo sempre all'interno del museo macro, non è che è proiettato su un edificio. Bene, grazie macro. Daniele, grazie. Grazie a te. Carlo, provincia di Teramo. Salve, buonasera a tutti. Dimmi. Mi sentite? Sì. Sì, ascolti, io volevo dire, io in anni fa ho avuto problemi economici, mi sono, tra virgolette, prostituito. Andavo con donne per soldi o regalini. Mettere in galera una persona che va con donne o uomini per soldi Cioè, cosa hai fatto? Hai fatto gigolò tu? Sì, siamo gigolò. Sì, vabbè, insomma... È un'offesa ai miei diritti. Sì, io non... Io... la mia vita... Certo, hai venduto il tuo corpo per ottenere dei regali, magari anche dei soldi, o sbaglio? Certo. E allora? Niente, Parenzo dice una cazzata, o il tenatore lì che era parlamentare. Sì, sberna, vabbè, ma vanno d'amore e d'accordo, vogliono punire i clienti, cioè, capito? vorrebbero punire anche i clienti, cioè le donne, allora, che sono andate con te, anzi no, prima curarle, prima no, multarle, nessuno, poi mandarle in comunità. Nessuno. Sberna, mandarle in comunità e poi eventualmente anche in carcere. Ma... diciamo che Parenzo si ferma al primo step. No, io mi fermo alla multa. Ti ferma alla multa, ammazza. No, la multa è recapitata, allora, a casa è molto moglie. È più coerente Sberna. Ma io non devo prendere dei voti, non mi interessa nulla. Cioè, mi hai chiesto un parere, te l'ho detto. No, poi, per carità, va benissimo. Ma non devo prendere dei voti, capisco che sia impopolare questa roba, ma non è che mi interessa. Adesso no, vedo che ma... scrivono. Cioè, non è, beh, non mi certo, devo candidare alle elezioni. Uno come te che impazzisce all'improvviso e dice che i clienti delle prostitute vanno multati. Ma non sono impazzito per niente, ti ho detto che sono a favore della prostituzione. Smettila. E nei bordelli vanno multati i clienti, ma i clienti sono malvissuti, sono dei malati. Sì, no, sei riuscita a dire pure questo. Il personale è che chi va da questi è un po' malvissuto, sicuramente. Allora, ma le donne poi... che andavano con te, Carlo, erano malvissute, erano gente strana. Non è meglio aprire una casa chiusa? Vabbè, quello è d'accordo, Parenzo. Quello è d'accordo. È penalizzare le mafie. Ma certo! No, ma Parenzo su questo è d'accordo, però così, poi a un certo punto, siccome pensa di avere rispetto agli altri una sessualità, capito, senza strappi, allora pensa che quelli che vanno a prostituire sono dei malati, malvissuti, lo hai detto. Ma non è questo il motivo, ripeto, se uno si vuole andare a divertire... Com'erano queste donne, Carlo, che venivano con te e pagavano? Ma donne, penso, un po' sfortunate, a volte, sole... abbandonate, senza amici, comunque se non sbaglio anche per le persone che hanno delle malformità, che sono a letto, ci sono delle terapie per favorire il sesso, diciamo. Sì, assolutamente, ragazzi, dobbiamo chiudere, ci sentiamo domani, chissà se la Scozia sarà indipendente oppure no domani, ciao. No, a me piacciono i mostri, a me piacciono i mostri, io voglio Borghezio, io voglio tutti i mostri, guarda, anche Peppe Fetish, tutti i mostri possibili e immaginabili devono passare da qui. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Boh, è simpatica la zanzara. Radio 24. La passione si sente.